quota di mercato, parliamo dello share, quella che prendiamo a quota di mercato, è il gruppo Fiat che perde questo 1%, perché passa dal 7 dell'anno precedente al 6 di quest'anno, perché sostanzialmente il gruppo Lancia perde uno 0,1, il gruppo Alfa resta allo 0,8, quindi è Fiat che ha questa situazione di grande calo, ma la si legge nei modelli, lei l'ha detto giustamente, se noi scorriamo la classifica dei 10 modelli più venduti a livello europeo, quelli che pesano davvero, questi dati saranno ufficializzati verso il 20 del mese, quindi avremo l'inizio della prossima settimana, però possiamo già estrapolare che punto a malapena riesce a collocarsi al decimo posto con circa 260.000 unità vendute rispetto alle oltre 323.000 dell'anno scorso, un calo di un 20% sul modello, è un gioco di parole di punta che è l'appunto, e questo la spiega molto. Se poi guardiamo la situazione, diciamo che ci sono dei modelli come Golf che vendono 450.000 unità o Fiesta che ne vendono 400.000, noi siamo a 260.000 e a malapena al decimo posto. Se poi andiamo a vedere la situazione sui principali mercati europei e scorriamo i primi 10 modelli, Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna, non ce n'è nessuno che sia del gruppo Fiat, e così è in quasi la generalità dei paesi europei, con l'unica eccezione di un appunto che è al quarto posto delle vendite polacche, che contano quel che contano, e di un appunto ancora che è in Slovenia al quinto posto, ma lì abbiamo un peso davvero ridotto, e quindi è la mancanza di peso dei modelli. Se poi, per concludere, andiamo al segmento principale europeo, che a differenza di quanto è per l'Italia sono i segmenti delle utilitarie, delle city car, quindi Panda e Fiat e 500, dove Fiat fa bene, se andiamo a vedere il dato europeo, la nostra Bravo realizza in tutto il 2010 poco più di 42.000 unità. Si pensi che Golf, lo dicevamo prima, ne fa più di 450.000, pensiamo che la seconda del segmento può farne come Focus circa 250.000, Astra ne fa oltre 200.000, la Peugeot 308 ne fa 180.000, Megane ne fa 240.000. Ecco, questo confronto è molto punitivo per un gruppo che non riesce a competere se non nei modelli A e B, se ha gli incentivi, ma quando questi cadono il mercato crolla a livello italiano e europeo e non siamo competitivi nel segmento C, non parliamo poi dei segmenti superiori.